Italia in controluce. 13:33 minuti, buongiorno gentili ascoltatori, buongiorno ad Alessio Maurizi, benvenuti all'appuntamento con la cronaca così come la vediamo noi su Radio 24, l'Italia in controluce. Oggi non possiamo che iniziare così, collegandoci in qualche modo col bar sport sotto casa, quello dove si commenta la partita della nazionale, e purtroppo l'amarezza è ancora presente in tutti noi per la figuraccia che ieri abbiamo rimediato in Sudafrica. E allora sentiamo un po' queste voci raccolte da Roberto Bonaldi. Per un momento sembrava Italia-Germania di 20 anni fa, 30 anni fa. Poi dopo probabilmente la testa non ha tenuto, ma forse con una presenza proprio di testa migliore forse saremmo andati avanti. Come mai le altre nazionali, le altre squadre corrono, compreso gli spagnoli, gli inglesi, no, gli inglesi un po' meno. Noi camminiamo, sarà la preparazione sbagliata. Ci crediamo sempre i migliori degli altri e automaticamente subiamo. Perciò dobbiamo prima di tutto tornare un po' indietro, fare un passo indietro, essere più umili e non crederci dei campioni quando non lo siamo, perché nello sport campione è quando ci sono i risultati. La qualità dei giocatori è molto molto bassa e... Infatti se la prima squadra italiana che è campione d'Europa, ha vinto Coppa Italia, Scudetto, non dà neanche un giocatore alla nazionale, il livello tecnico del calcio italiano è quello che abbiamo visto. È veramente da cambiare tutta la squadra, siamo troppo vecchi per giocare, non c'erano fino all'ultimo minuto, ma all'ultimo minuto si sono ricordati di saper giocare, hanno fatto due gol così di seguito, però Lippi cambia il lavoro e anche i giocatori possono cambiare lavoro tutti quanti, basta. Il problema è che sono troppo strapagati e nessuno si impegna al massimo, perché tanto che se ne fregano, i soldi ce l'hanno comunque, le ce l'hanno comunque, che sta fregando di andare a giocare bene. Gattuso ha detto che torniamo cavalieri della vergogna. Ha ragione, sono con Gattuso tutta la vita, guarda, anche se non sono milanista. Lippi ha fatto le sue pubbliche scuse, le condivide. Le potrei apprezzare, però poteva anche accorgersi molto prima degli errori che stava combinando, e c'è da dire anche che il calcio italiano è sfornito di buoni giocatori all'altezza di un mondiale, dato che il campionato italiano è tutto in mano ai giocatori stranieri. A Prandelli che cosa si potrebbe augurare? Che faccia bene, che ridia il sogno agli italiani, che ci faccia sognare. Prandelli da buon bresciano, perché io vengo delle zone vicino a Crema che lui conosce benissimo. Secondo me sì, ha delle idee soprattutto per la parte giovanile. Un consiglio che direi a Prandelli è di partire da Quagliarella. Quagliarella in un momento difficilissimo, perdavamo 3-1, ha avuto la lucidità di fare un tiro e ha fatto un gol spettacolare. Oggi partono per tornare in Italia, come sarà l'accoglienza? Penso che non ci sia nessuno proprio ad accoglierli, me lo auguro per loro. Italia in controluce. Cambiamo decisamente scenario. Ieri manifestazione a Roma organizzata dalla città, ma soprattutto voluta dalla comunità ebraica in favore di un cittadino onorario della capitale, un cittadino speciale però, il soldato israeliano Gilad Shalit, da 4 anni esatti, prigioniero di Hamas. Sentiamo Elisabetta Fiorito. Monumenti al buio, Colosseo, Castello Sforzesco, Mole Antonelliana si spengono per Gilad Shalit, il soldato israeliano prigioniero di Hamas dal 2006. Al Colosseo è presente il padre del ragazzo, Noam Shalit, che attende da 4 anni la liberazione del figlio. Non c'è nessun motivo di essere felice, ci dice. No, I'm not happy at all. Why should I be happy? Ma commosso sì. It's moving and touching to see the all the people support and the people of Rome and the Jewish community and very touching. Polemico il presidente della comunità ebraica romana Riccardo Pacifici, che sottolinea l'assenza di Emergency e di Amnesty International e li definisce pacifisti a senso unico. La vita è una cosa per noi così importante, tanto che nelle trattative, come sappiamo, si è disposti a scambiare un soldato israeliano con 1000 terroristi criminali, e facevamo l'esempio cosa sarebbe successo nell'Italia delle Brigate Rosse se negli anni dei rapimenti come quello di Moro si fosse accettato di fare uno scambio, anche non dico con 1000 ma con 10 o 20 terroristi delle Brigate Rosse. Presente il sindaco di Roma Gianni Alemanno, che ha nominato Gilad Shalit cittadino onorario di Roma. Siamo molto orgogliosi di questa cittadinanza e vogliamo che Gilad Shalit sia libero. È una questione che non riguarda solo Israele, che non riguarda soltanto il Medio Oriente, che riguarda tutto il mondo, perché quando viene calpestato calpestata la dignità di una persona, tutte le dignità, tutte le persone vengono calpestate. Le bandiere di Israele sventolano al Colosseo, sono affluite circa 5.000 persone, molti appartenenti alla comunità ebraica romana. Per manifestare a favore dei Gilad Shalit, è uno scandalo che l'Unione Europea non si è adoperata abbastanza per la liberazione del soldato. Roma però l'ha nominato addirittura cittadino onorario, stasera c'è anche il padre del ragazzo. È un dovere, anche perché credo che sia un cittadino romano a tutti gli effetti, come ha detto il sindaco Alemanno. Qualora fosse liberato, questo contribuirebbe alla pace in Medio Oriente? La pace secondo me è molto lontana, le parti sono distanti e spero che si mettano d'accordo quanto prima, anche se non sarà facile. Posso chiedere se fa parte della comunità ebraica romana? Sì. Ariel Toaf dice gli ebrei romani sono, e italiani sono intrappolati sul il problema della doppia lealtà, da una parte Roma, da una parte Israele. Siamo italiani a tutti gli effetti con un pezzo di cuore in Israele. Giorgio, siamo qua per cercare di fare qualcosa per la liberazione di Gilad, che cioè, veramente è una cosa assolutamente indegna. Quanti anni hai? 25. E quindi Gilad ha più o meno la tua età? Sì, più o meno, no, adesso è un po' più piccolo, ma più o meno è coetaneo. Già questo potrebbe essere mio fratello, una cosa che mi stringe il cuore solo al pensiero. E noi dobbiamo fare di tutto il possibile per cercare di aiutarlo anche da lontano. Senti, questa sera sono state dette le parole un po', ci sono i pacifisti a senso unico. Tu pensi che in Italia ci sono i pacifisti a senso unico? Purtroppo penso che ci siano delle persone che vanno in certi sensi un po' a senso unico. Sicuramente delle preferenze ci sono. Purtroppo però non tutto fila liscio. Al termine della manifestazione scoppia una maxi rissa di fronte al Campidoglio tra i sostenitori di Shalit di ritorno dal Colosseo al ghetto e alcuni palestinesi e simpatizzanti italiani del gruppo Free Gaza che avevano organizzato un sit-in davanti al comune. Una giovane finisce all'ospedale Santo Spirito mentre volano calci e pugni. Italia in controluce. Così ieri dunque a Roma, facciamo un passo indietro di qualche giorno, l'ultima sentenza sui fatti del G8 di Genova la settimana scorsa, con la condanna anche all'ex capo della polizia De Gennaro. Un momento, quello vissuto nel luglio del 2001, che divide la storia dell'Italia, c'è un prima e c'è un dopo. E allora con Cristina Carpinelli abbiamo ricostruito 9 anni il percorso della verità giudiziaria intorno a quei fatti, sentiamo. C'è una carica, della polizia questo. Bene, mani alzate, resistenza passiva. Ragazzi, uno sgombero in diretta. Radio Gap sta per essere sgomberata. Mantieniamo la calma. Tutti e mani alzate. Per raccontarvi della conclusione del processo alla Diaz e della condanna a 1 anno e 4 mesi a Gianni De Gennaro, ex capo della polizia durante il G8 di Genova e oggi capo dei servizi segreti, dobbiamo raccontarvi cosa accadde quella notte. Michelangelo Forniera era proprio dentro la scuola il 21 luglio 2001, era vicequestore aggiunto del primo reparto mobile di Roma. Vide i suoi colleghi massacrare persone inermi, parlò in aula a Genova di macelleria messicana. Sentiamolo. Quando sono arrivato ho trovato in atto delle colluttazioni, che non erano tali. Cioè? E cioè che purtroppo ho trovato, era una situazione di buio e ho tentato di capire che cosa stesse succedendo. E mi ero reso conto che le colluttazioni non erano tali, ma che in realtà, cioè se erano colluttazioni, erano unilaterali. Può spiegare? Posso spiegarlo, che c'erano 4-5 poliziotti, io questo non sono in grado di riferirlo, 2 in borghese e 1 o 2 forse con la divisa del reparto mobile con la cintura bianca, che stavano facendo quello che non doveva essere fatto, cioè una volta praticamente inertizzati stavano infierendo sui feriti. Perché non l'ha detto prima questo? Perché il senso d'appartenenza, che può essere anche confuso con omertà, in un momento così difficile di strepitus fori per tutto quello che si stava levando, non me la sono sentita. Io sono cresciuto, vivo in una famiglia di poliziotti, non ho avuto il coraggio di dover rilevare in una sede così significativa come quella di un procedimento penale un comportamento così grave. Mi sono imbattuto nella posizione che ho riportato nello schizzo, una ragazza alta circa 1,80, con un corpo abbastanza mascolino, robusto, probabilmente nordica, che giaceva in una pozza di sangue, ma sangue veramente copioso. E quindi? Quindi la prima cosa che ho fatto, perché il quadro della situazione secondo me era completamente sfuggito di mano, e come lo è stato, se no non ci sarebbe questo processo probabilmente, ho ordinato ai miei uomini, dovunque si trovassero tramite la radio, di uscire immediatamente dalla scuola e di chiamare immediatamente personale medico, di fare venire delle ambulanze. Forniera era uno dei 28 poliziotti imputati per la vicenda. All'inizio fornì una versione dei fatti diversa, disse: durante le indagini non ebbi il coraggio di rivelare un comportamento così grave da parte dei poliziotti per spirito di appartenenza. Ed è qui che arriva la nuova sentenza a Gianni De Gennaro, quella che ribalta la sentenza di primo grado del 7 ottobre 2009. In quell'occasione De Gennaro e Mortola furono assolti. Assolve Lupe Di Giovanni, Gratteri Francesco, Nicera Massimo e Panzieri Maurizio dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste. Per udienza è tolta. Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! In appello a Genova, De Gennaro e l'ex capo della Digos di Genova, Spartaco Mortola, sono stati accusati di aver istigato alla falsa testimonianza l'ex questore di Genova, Francesco Colucci, in merito all'irruzione della polizia alla scuola Diaz. L'ex questore Colucci aveva cambiato la propria versione di testimonianza proprio durante lo svolgimento del processo sui fatti della scuola, il processo in cui veniva stabilita l'assoluzione degli imputati per insufficienza di prove. Colucci, in quell'occasione, sostenne che De Gennaro non fosse al corrente delle violenze, ma un'intercettazione telefonica aveva poi smentito la falsa dichiarazione di Colucci. «Ho parlato con il capo, devo fare marcia indietro», aveva detto Colucci a Mortola in una conversazione registrata dagli inquirenti. Il capo era Gianni De Gennaro. Di fatto le condanne chiudono in secondo grado i maggiori processi legati ai fatti del G8 di Genova del 2001. Finora le sentenze della Corte d'Appello di Genova hanno interessato 25 manifestanti accusati delle violenze di strada, ed è pendente anche in questo caso il ricorso in Cassazione, i 44 poliziotti, agenti di polizia penitenziaria e medici imputati per le violenze nella caserma di Bolzaneto e i 27 imputati per l'irruzione nella scuola Diaz. A Genova fu ucciso anche Carlo Giuliani. Il processo a carico di Mario Placanica, il carabiniere indagato per omicidio volontario, è stato archiviato nel 2003 per legittima difesa. Sempre a Cosenza si è chiuso anche il processo contro i militanti della Rete Sud Ribelle. La Corte d'Assise di Cosenza ha assolto nel 2008 tutti e 13 i No Global indagati per associazione sovversiva. È tutto per Italia in Controluce, vi ricordo che potete scriverci controluce@radio24.it oppure cercateci su Facebook Radio 24 Italia in Controluce. Buona giornata, ci sentiamo lunedì prossimo.